questo salone, le tante manifestazioni fuori salone parlano di quell'ottimismo, di quella forza di volontà di cui c'è bisogno in questo momento di difficoltà per uscire dalla difficoltà e per far crescere di nuovo la nostra economia e soprattutto il numero e la qualità dei posti di lavoro. Questo il commento del governatore della Lombardia Roberto Formigoni all'apertura dei saloni 2012. Se la manifestazione risponde concretamente alle esigenze modificate dal perdurante contesto di crisi, è anche vero che l'atmosfera quest'anno non è cambiata, anzi, gli addetti ai lavori sono presenti in massa nei padiglioni di Rofiera e hanno atteso pazientemente dietro ai tornelli per entrare e curiosare fra le novità dell'arredo e del design. Ma la crisi, come detto, ha influito sulle tendenze e lo si vede dai prodotti esposti a partire da quelli dedicati a bagno e cucina. Emerge infatti un ritorno al prodotto dalla dimensione più realistica, meno enfasi insomma nei confronti della figura del designer e molta di più per l'oggetto in sé. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.